Sconvocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Non leggo i giornali, non ascolto le radio, non guardo i canali privati, se non qualche porno. Scherzo. Scherzo. Oggi tutti convocati hot. Ciao Pier. Come va? Oggi esageriamo, anche se siamo in ora in fascia assolutamente protetta. Ma l'hai sentito il mancio ieri? L'ormone. Io non leggo i giornali, non ascolto le radio, a parte Radio 24, no, questo non l'ha detto, però voleva dirlo. Non l'ha detto per non offendere gli altri. Era un endorsement in diretta a Radio 24. Ma noi lo perdoniamo, però ha detto, non guardo neanche i canali privati. Ma non solo Radio 24, ma sì. Questo è un complotto oppure abbiamo 100% di share? Perché adesso so che gli ascolti vanno benissimo, ma questa roba è inquietante, cioè è quasi inquietante. Cioè, sia quella rossa e quella bianca, perché poi ci sono tutte e due. Par condicio, car sharing, tutti su Radio 24, fissi. Hai visto? È incredibile. Hai visto? No, senti, a parte film porno di Mancini, sì. Oggi è un giovedì di grande match, come fosse un cartellone di una serata di box, perché noi è giorni che parliamo dei mal di pancia, dei procuratori, delle procuratrici, di giocatori che non si presentano in ritiro, di tante storie. Oggi il mal di pancia di cui parliamo è proprio il suo, l'uomo del porno. Ma io faccio l'allenatore, alleno quei giocatori che in questo momento sono qua, ci ritroveremo tutti il primo di agosto. Io queste cose non le so, per partenze e arrivi dovreste parlare con altri. Poi ne parliamo con calma, dopo il traffico, però io Mancini così arrabbiato l'ho visto raramente. Sì, no, Mancini c'è qualcosa, è chiaro che c'è qualcosa. Non è una normale, mi sembra negli ultimi giorni sia abbastanza chiaro che non è una normale dialettica fra allenatore e società, magari sugli acquisti, perché questo sappiamo che in qualche modo riguarda anche Spalletti fra le righe ha fatto capire, insomma, che certi giocatori sono arrivati perché sono in linea con i parametri finanziari della società. O anche altri allenatori in passato hanno espresso, insomma, con garbo il loro disagio. Qui mi sembra che ci sia un malessere un po' più profondo, è proprio quasi più il linguaggio del corpo che le parole utilizzate. Un po' come quando Moratti diceva non è simpatico. Lui ha detto non me ne occupo di mercato, e noi abbiamo tonnellate di audio negli archivi per cui Mancini il mercato l'ha sempre fatto, quindi se dice io non mi occupo di questa cosa, da questo punto di vista è una delle qualità, oltre a quelle tecnico-tattiche, direbbe Capello, di Mancini, è anche questo suo assoluto carisma agli occhi dei giocatori, le famose telefonate, no, per convincere i suoi fedelissimi. Ha un profilo alto internazionale, è certamente uno che se ti chiama al telefono, insomma, si risponde al secondo squillo, ed è quindi da questo punto di vista un asset importante, una risorsa molto importante sul mercato. Quindi questo suo scarso entusiasmo è abbastanza sospetto e potenzialmente anche pericoloso. No, guarda, in realtà c'è un amico che ha avuto un'intuizione, ha la chiave interpretativa di tutto, ha scritto 349-238-6666 in WhatsApp: Mancini è come tutti noi, siamo a luglio e il fantacalcio è troppo lontano, quindi perché sbilanciarsi? Bah, non lo so. 800-24-0024, poi ne parliamo dopo con un interista doc. Oh, c'è un'altra storia, un altro match che onestamente mi sta venendo a noia. Ti faccio sentire questa notte Pogba a Los Angeles, quando colleghi americani gli fanno vedere una maglia della Juventus. Primero, la prima famiglia, primero per mille. Si José Mourinho toma il telefono e ti dice: Paul, quiero que juegues conmigo en Manchester United. ¿Cuál es tu respuesta a José Mourinho? Mi respuesta es... No sé. No sé cuándo. Vemos. Paguen a la Juve. Para el momento soy aquí. Para el momento soy aquí. Soy feliz aquí. Oh, allora, traduzione facilissima, gli fanno vedere la maglia della Juve, Pogba dice la mia prima famiglia, e il giornalista dice: ma se Mourinho prende il telefono, ti chiama e dice vieni qui al Manchester, e lui non lo so, per il momento sto bene qui. Io, mamma mia. No, io voglio fare i complimenti al collega, il collega spagnolo, sì. Che non è spagnolo, ma è sudamericano, non sente, non vede, ma parla, va bene, Gregori. Però insomma bisogna fargli i complimenti, perché poi un po' di, no, un po' di questo, di questa personalità nel fare le domande alla fine funziona, nel senso, di fronte a roba del genere Pogba qualcosa ti deve dire. Poi la verità è che molto spesso le risposte o le facce o le sensazioni che vengono catturate dai protagonisti non sempre si trasformano in qualcosa di concreto. I giornali, non me ne vorranno, sono pieni di titoli con Tizio e Caio, Juve arrivo, oppure Napoli, eccomi. È semplicemente perché il giocatore magari dice sì, per carità, bellissimo, o non chiude la porta, sì, certo, esplicitamente. A Torino si mangia bene, quindi... dopo questa, cioè, così come faccio i complimenti, diciamo, al giornalista sudamericano che si è inventato questa simpatica gag, però non mi sembra che Pogba abbia detto delle cose decisive. No, però siamo al 14 luglio, insomma, siamo sinceri. Pogba ha tutto il diritto di scegliere se andarsene o no, di fare il percorso col club e anche con il suo procuratore, è tutto molto chiaro. Però al 14 luglio siamo tutti grandicelli, secondo me la questione dovrebbe già essere definita, finita, basta con questa cosa, ma vediamo adesso la mia famiglia, la mia seconda pelle, il club che amo, poi domani non lo so, vabbè. Però c'è lo scontro epico, carissimo Pier, quello di cui non abbiamo un file audio, ma che è assolutamente in cartellone in prime time, quello tra Lotito e Pallotta. Lotito questa mattina a Repubblica: Sabatini ha chiamato l'allenatore Bielsa per non farlo venire alla Lazio e mi ha messo i bastoni tra le ruote. E poi ancora, la Roma non ha né la società né i soldi e lo vedrete. Sai come gli ha risposto Pallotta via Twitter? Ha risposto: io lo adoro questo tipo, riferendosi a Lotito. Mi fa sbellicare, è come essere iscritti al club della barzelletta del mese. Solo mi dispiace molto per i tifosi della Lazio che devono vivere questo quotidianamente, perché meritano di meglio. Io dico che se Twitter facesse pagare i diritti per queste cose qui, sarebbe ricca. È già ricca, eh? No, dovrebbe dare i soldi a chi scrive. Sì, sì. Una meraviglia, questa roba è una meraviglia dal punto di vista proprio dello spettacolo. Tra l'altro non è la prima volta che Lotito e Pallotta se le mandano a dire. Posso dire che Sabatini chiami Bielsa per dire non andare alla Lazio, mi sembra la follia, e tra l'altro dire una cosa del genere significa riconoscere implicitamente l'inferiorità dei tuoi manager nei confronti degli altri, nel senso che se Sabatini veramente, e non penso, avesse fatto questa cosa qua, da un lato sarebbe un po' strozzetto, se potete sì, siamo in fascia protetta, ma insomma, abbiamo sentito, e dall'altra però sarebbe molto bravo, nel senso che alla fine, no, uno dice beh, complimenti, se hai questo potere su un allenatore dall'altra parte del mondo del livello di Bielsa, vuol dire che sei una potenza. Ecco, io non credo che questo sia successo. Credo anche che Pallotta, di fronte a questa facile palla gol che gli hanno messo sulla porta, se la sia giocata bene, l'abbia spinta lì. Certo. In questo momento Lotito mi sembra un po' in confusione. Sì, ma anche se io invito tutti a spendere un euro e qualcosa, comprarsi Repubblica oggi e leggerla quell'intervista rubata nella buvette, perché comunque sulla vicenda Bielsa ognuno può farsi la sua opinione, e io non so se Lotito è l'unico colpevole di sto casino. Detto proprio, no, poi io se volete parlarne, aspetta, perché c'è il traffico, siamo già avanti di 2 minuti. Comunque 800 24 00 24, siamo qui fino alle 15:30, e magari ci dite che cosa ne pensate. Un amico corregge: la maglia mostrata era quella dello United, per questo ho detto la mia prima famiglia. Sì, ma tanto il senso non cambia, è una barzelletta anche quella. L'ultima la sai, raccontacela dai, che ci salvi la serata. Tanto è tardi per uscire, ma è troppo presto per dormire. Tutti convocati. Convocati. Puoi riassumere un po' con che spirito inizia la stagione? Amo il mio lavoro, cerco di farlo sempre al massimo. È quello che sto facendo dal primo giorno. Le altre cose per me non sono molto importanti. Ah, il contratto. Il contratto no, non è una cosa importante. Non è una cosa importante. Ma io faccio l'allenatore, alleno quei giocatori che in questo momento sono qua, ci ritroveremo tutti il primo di agosto, e io queste cose non le so, per partenze e arrivi dovreste parlare con altri, dovreste parlare con altri. Si è parlato l'anno scorso di giocatori, anche quest'anno di giocatori che lei forse gradirebbe un po' più esperti, pronti subito, tipo Touré, e poi invece si nota che la società va su giovani come Gabriel Jesus e João Mario. Ma guarda, adesso io cado dalle nubi, qualcuno di voi è giovane, ma se andate indietro, come all'Inter hanno debuttato almeno quanti giocatori Gigi giovani? Non credo sia un allenatore nella storia dell'Inter che abbia fatto debuttare più giovani di me, quindi se sono giocatori giovani e bravi, come giocano? Saluto Michele Dalai, ciao Michele. Eccomi, buongiorno. Che abbiamo convocato insieme a Pierluigi Pardo per tradurre dal mancinese all'italiano. Cade sì, dalle nubi, hai sentito? Ma sì. Io cado dalle nubi. Voi mi chiedete di Yaya Touré, io cado dalle nubi. Non so cosa ne pensate voi, ma direi che non serve nemmeno una gran traduzione. Cioè, ci sono delle pause che sono quasi funere tra una frase e l'altra. E poi c'è un pezzo che mancava qui, con cui lui dice una cosa ancora più grave, che è difficile in Italia costruire un progetto serio. Sì. Cioè 4-5 anni non si possono avere, è praticamente impossibile, questi non sono progetti seri. A me, da tifoso, senza nessuna esperienza dei fatti di campo, sembra che stia un po' abdicando al suo ruolo. Lui arriva all'Inter per essere quasi un general manager all'inglese, e adesso dice che è un allenatore a cui non interessa neanche il prolungamento del contratto. Diciamo che è il peggiore dei segnali che si possano cogliere da uno che dovrebbe guidare una squadra rinnovata o con delle ambizioni. Quindi è una brutta intervista. Poi c'è anche da chiedersi a chi convenga iniziare la stagione così. Ma comunque vi leggo un paio di messaggi arrivati, 349-238-6666, che sono poi uno spaccato di quello che oggi è il tifo dell'Inter. C'è un amico che scrive: Franco, i tifosi dell'Inter non hanno alcun anello al naso, hanno capito che i nuovi padroni cinesi sono qui solo per il business, mercato modesto e squadra modesta. E poi invece c'è un amico che scrive su WhatsApp: Mancini ha rotto, è un anno e mezzo che allena l'Inter, ha comprato 12 giocatori, cosa vuole ancora? Ranieri ha vinto in Inghilterra al primo colpo con Leicester, è un pallone gonfiato. Mancini, non Ranieri. Dai, mi sembra così. Spaccato, Fumato, spaccato. No, io dico che però insomma sinceramente non è che Mancini è nato a Birmingham o a Watford o a Newcastle, è nato in Italia, conosce il calcio italiano, conosce la fretta, che non è che sia per carità una cosa positiva, però conosce benissimo l'ambiente e un anno fa parlava di Scudetto, quindi sa benissimo quelle sono le regole. Sicuramente in questi anni gli sono successe delle cose, nel senso che certamente lui ha dovuto traghettare la squadra in una serie di cambiamenti anche societari molto importanti, certamente la base che gli è stata consegnata è molto distante rispetto alla Juve, però io, proprio perché lo stivo Mancini, mi aspettavo qualcosa in più, lo dico sinceramente, anche perché Mancini ha avuto a disposizione gli strumenti finanziari e la possibilità di fare mercato, secondo me molto più ad esempio di Mazzarri. Non dimentichiamoci come arriva Mancini all'Inter. Non è nemmeno paragonabile, non è nemmeno paragonabile la quantità di investimenti, mentre sono paragonabilissimi i risultati, nel senso che poi alla fine siamo lì. E quindi io, soprattutto perché stimo Mancini, penso che lui potesse fare di più. Secondo me è consapevole lui stesso che poteva fare di più, probabilmente sarà rimasto deluso anche dai giocatori, anche dalla società, insomma, mica la vita è perfetta, è ovvio che non è. Però insomma, il bilancio non sì, è. Però a chi conviene questa situazione? Cioè, io faccio la domanda a tutti e due, partendo da Michele Dalai. Cioè, io non so se convenga ai cinesi partire così, non so se convenga a Mancini iniziare senza alcuna sintonia. Cioè, un punto di incontro ci deve essere. Ma guarda, io intanto sposo in toto la teoria di Pier, cioè è difficilissimo che Mancini sia ritenuto del tutto immune da responsabilità. Anzi, l'anno scorso Mancini lentamente, mi sembra che a parte quelle prime 10 partite, così come l'anno prima, che è un anno quasi completo perché inizia novembre, abbia perso un po' di contatto con quella che era la sua idea di Inter, con quello che voleva. A chi conviene? I cinesi, che sento già contestati, che è bellissimo, no? Cioè sono già 10 giorni, hanno ripianato il debito, ma già sono dei cialtroni, però credo che Mancini sia una scelta assolutamente né loro né di Toir, veramente è una scelta che Moratti ha suggerito, che Moratti ha portato come soluzione, che poteva funzionare in un momento di grande difficoltà. Loro se lo ritrovano, non si amano, si capisce da subito, hanno deciso di non concedergli quel giocatore faro che lui chiede da due anni, che è Yaya Touré, che poi è l'operazione che Mancini aveva fatto con Veron, lui la squadra la costruisce anche così, e a questo punto il disamore è del tutto evidente. Io non so, ne so pochissimo, ma lo chiedo a voi piuttosto, cioè io non credo che, potrebbe anche essere che Mancini non arrivi a iniziare il campionato. Ma guarda, ci sono tanti, tanti che evocano la fuga poi... alla Conte, cioè abbandonando prima della partenza vera propria della stagione l'Inter. Io non credo che questo sia uno scenario che oggi si possa permettere nessuno all'Inter. Ma assolutamente ma no, nemmeno Mancini. Non è lo scenario sicuramente consigliabile per l'Inter e per Mancini. Mancini è anche un grande entusiasta, perché è un allenatore, lo ricordiamo, uno dei pochi allenatori che hanno vinto, quindi ha comunque una credibilità e un allure di un certo tipo, quindi insomma vederlo così fa un po' effetto. Mancini era uno che un anno fa diceva ma l'Inter non deve puntare alla Champions, deve puntare allo Scudetto, perché cioè, cercava di tirar fuori l'orgoglio e l'entusiasmo dei tifosi. Questa è una cosa secondo me molto importante, che non è che proprio sia influente, no, cioè, questo elemento di entusiasmo, di energia, no, anche, no, ma anche in un perché, momento di campagna abbonamenti. Anche perché poi tu chiedi a Mancini di quelli che sono i grandi colpi che i cinesi stanno preparando e lui ti parla di Gabriel Jesus come di un ragazzo, un buon prospetto, di João Mario come di un doppione di Brozovic, e quindi fondamentalmente dice che si terrebbe tutti quelli che ha. E questo evidentemente è un messaggio che poi ha delle ripercussioni anche al di fuori, in tutto l'ambiente. Io posso rubare ancora 30 secondi alla borsa. Io, c'è un'altra cosa che da ieri sera mi gira per la testa. Poi c'è Moratti che telefona a Icardi e gli dice: Mauro, fa il bravo e le cose andranno a posto. Moratti, che mi risulta dal 28 giugno essere più o meno un semplice tifoso come Michele Dalai, un po' più magari importante, ma sempre un tifoso. Ma guarda, questa in realtà è una delle tante cose che provano l'attaccamento invece di Moratti anche nel momento immediatamente successivo. Ci vuole un po' di ragionevolezza. Poi io, se mi posso permettere, al di là del fatto grottesco che Vandanara si esprime in quel modo, la sostanza del suo discorso non è affatto sbagliata, anche perché poi c'è un ingaggio che non rappresenta la qualità del giocatore in questo momento, il modo di portarlo è stupido, l'idea di fondo no. Io temo una cosa, Mancini è vero, è un entusiasta, è uno dei pochi che hanno un pedigree spendibile, è da metà dell'anno scorso, da quando è successo il pasticciaccio con Sarri, che Mancini non ha la stessa faccia, e credo che ci sia, e questo però sta nelle stanze della sua vita privata, che non va messa nel mezzo, un problema anche umano, perché l'entusiasmo non è merce che si recupera solo sul campo da calcio. L'ambiente è un pochino scosso da questo suo momento e si inizia una stagione dopo la seconda stagione, perché poi Banega è un giocatore di livello assoluto, cioè il mercato dell'Inter è già a metà adesso, sì. A parte le cessioni, hanno preso un centrocampista mostruoso, rischiano di aggiungere un altro centrocampista di movimento come João Mario di qualità enorme. A me sembra che dopo avere Perisic, che è il più forte esterno al mondo, eccetera. Si potrebbe accontentare e mettere su una faccia un po' più A meno che non sia entusiasta. La sua idea non sia quella di non aver più voglia di questa società e di questa squadra, però lì tocca a lui. Sì. Non sono loro che se ne devono liberare. E magari il 14 luglio è un po' tardi, però Conte andò via 15, se non sbaglio. Quindi c'è sempre tempo, abbiamo 24 ore di tempo per capire se Mancini fa come Conte. Il tema personale di Mancini non è un dettaglio, io non ne so nulla, e poi comunque essendo eventualmente un discorso di carattere personale mi sembra giusto non considerarlo, anche se onestamente dall'esterno sembra indubbiamente meno entusiasta rispetto a qualche mese fa, insomma, quindi questo poi se sia una semplicemente per un discorso tecnico o per altre situazioni, io questo non lo so, veramente non lo so e non voglio neanche saperlo, nel senso che fa parte appunto della privacy di una persona, però credo anche che sicuramente Mancini è un grande allenatore nel momento nel quale riesce a portare entusiasmo ed è fantastico da questo punto di vista. Sì, altrimenti va evidentemente a due o tre marce in meno. Ti devo fermare, Pier, perché siamo in ritardo per la borsa. Saluto Michele Dalai. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao Michele, grazie, che è lì in attesa del 15 luglio, la data fatidica, chissà. C'è la borsa, torniamo subito dopo. Oggi alle 18, così gli amici che ci stanno scrivendo si calmano. I tifosi della Lazio fanno la marcia contro Lotito. Noi non è che stiamo qui a difendere Lotito, diciamo quello che pensiamo della vicenda, ad esempio, Bielsa. Borsa e torniamo. Guarda, adesso io cado dalle nubi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si ricomincia. Tutti convocati. Allora, se volete essere convocati, 800 24 00 24, da fare adesso, fino alle 15.30 ci siamo, come Arturiano. Sì, salve. Vai. Salve, grazie per la convocazione. Complimenti per il programma. Grazie. No, niente, io volevo intervenire giusto due secondi riguardo Pogba. Essendo io uno juventino innamorato, come tutti i juventini, del polipo, come lo chiamiamo noi, Pogba. Però penso questo, non so se siete d'accordo, che nel momento in cui intervengono queste situazioni, si va via, non va via, resta, allora arriva la mega offerta, allora io penso sia il caso di farlo andare, anche per provare, insomma è giovane, adesso si riesce ad avere un certo quantitativo a livello di milioni di euro, ecco, nel venderlo, poi... Sì, io credo, Arturiano, che i soldi ci saranno anche l'anno prossimo eventualmente, perché questi sono discorsi che facevamo, Pier, anche un anno fa con l'offerta del Barcellona, si diceva ma 80-90 milioni quest'anno, poi chissà l'anno prossimo, e poi invece quest'anno i milioni ci sono lo stesso e ci saranno probabilmente fra un anno. Io quello che contesto è che di una cosa che probabilmente è abbastanza chiara nella testa di tutti i protagonisti si debba tirarla lunga con queste manfrine tra prima, poi, adesso, per il momento, e poi vedremo. È questo, no, Pier? Ma sì, però è anche il mercato di oggi, cioè insomma non si può neanche pensare che uno su una situazione come quella di Pogba, che vale potenzialmente questi benedetti 123 milioni, ammesso che poi questa offerta sia proprio arrivata, insomma... è normale che ci siano titubanze di pensamenti, colpi di scena, cioè questo fa parte della vita, non è una cessione di Padolina al Cagliari, con tutto il rispetto, no, certo, per il Pado, no? Cioè è ovvio che è una roba un po' diversa, e quindi è normale che ci sia una magari anche un dibattito, anche una discussione, dei dettagli tecnici che devono essere capiti. A me sembra che la Juve stia facendo le cose in grande. Poi si può anche pensare che stia facendo le cose in grande per preparare grandi cessioni, perché è chiaro che Pjanic e Benatia sono due colpi pazzeschi che sembrano perfetti per poter eventualmente rimpiazzare o comunque colmare il vuoto di Pogba e Bonucci, ma io non credo che partiranno tutti e due. E poi comunque queste cifre, queste cifre diventa assolutamente difficile per fare una grande operazione. Benatia a 20 e vendi Bonucci a 60, faccio per dire. Oppure compri Pjanic a 38 e vendi Pogba a 100. Certo. Insomma, no? Non mi dire che non mi dire che ti restano i soldi per Higuain, perché ecco, abbiamo già affrontato ieri il tema. Aspetta, Antonio da Napoli, così Antonio. Buonasera, salve a tutti. Ti volevo rinnovare i complimenti, Giovanni, ti direi il miglior giornalista, sì, italiano, senz'altro quello che studia di più. Eppure volevo fare i complimenti per Luigi, è diciamo, un grande conduttore, grande telecronista, davvero. Però l'unico difetto che gli posso addebitare, sì, è la democrazia cristiana, un poco troppo. Io volevo fare una domanda, questa me la devi passare. Io propongo diciamo così di dare diciamo così diciamo una sorta di 8 per 1000 ai calciatori, anche ai calciatori, così potremmo sentire diciamo una telecronaca senza, cioè non so, mi sono l'8 per 1000, non lo so. Agli ex calciatori, senza la spalla tecnica, perché Antonio non piace. Ma poi possono fare anche senza l'8 per 1000, adesso. Quindi vi pregherei un attimo adesso di non portare il tema, perché è una mattinata abbastanza complessa, ma per carità, ci mancherebbe altro, dobbiamo già pagarle, siamo felici. Detto questo, sull'8 per 1000, perché vogliamo togliere, cioè, che cos'è la... No, ma anche a me fondamentalmente le spalle tecniche non dispiacciono, assolutamente, poi ognuno ha le sue preferenze, però insomma ce ne sono alcuni che sono degli autentici fuori classe, comunque, altri magari un po' meno, ma è la vita. Contribuiscono fra l'altro anche al ritmo della telecronaca, oltre che dare un valore aggiunto in termini di contenuto, quindi no, c'è un doppio vantaggio di contenuto e forma. Poi è ovvio che insomma quello che conta è la partita, ma insomma quello che conta sono i protagonisti. Ecco, diciamo che il sogno del tifoso non è avere la partita commentata da Caressa, da me, da Compagnoni, da Trevisani, ma è avere la partita che finisce bene. penso, no? Con la propria squadra che vince. Questa opzione non è ancora nei pacchetti né Premium né Sky, quindi no. Però ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Il premio del giorno va ad Andrea da Trento. Pogba è troppo scarso, deluso ad Euro 2016, ci tocca tenerlo. Insomma, capita, anche questo. Avevi evocato Benatia? Te lo faccio sentire. Sì. La Coppa dei Campioni, vogliamo vincere tutto. Questo è il sonoro dell'arrivo di Benatia. Saluto Mario Giunta, la redazione di Sky. Ciao Mario, guarda, ciao. Mi tolgo subito il dente, via il dente, via il dolore. Ha scritto prima un amico tifoso della Juve: è arrivato Benatia, quindi vuol dire che parte Bonucci, vero? Ditemelo. No, non diglielo. Non è detto che parta Bonucci, assolutamente. Assolutamente no, questo non è così automatico, ecco, la partenza di Bonucci. Ascoltavo prima Pierluigi, in ogni caso è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni di euro per un difensore centrale come Bonucci, la Juventus secondo me ha comunque l'obbligo di pensarci quantomeno se eventualmente cedere un giocatore come lui. Ma l'arrivo di Benatia non vuol dire che domani o nelle prossime ore la Juventus acceleri per la partenza di Bonucci. Ha l'obbligo di pensarci su, anche se ne arriva una da 25 per Zaza, cosa che sta succedendo. Sì, ma no, ci sta già pensando. Questo è poco ma sicuro. Tra l'altro Zaza adesso, oggi giovedì, lunedì tornerà dalle vacanze, beato lui, aggiungerei, perché già c'è andato. E poi darà una risposta al Wolfsburg, che in questo momento è la squadra più interessata a Zaza. Vi ricorderete che il Wolfsburg fu interessato anche a Gabbiadini, le cifre sono più o meno le stesse, 25 milioni di euro, poi metteteci bonus, però in questo caso dovrebbero essere compresi i bonus. Loro sono una società molto importante, che possono dare anche parecchi soldi dal punto di vista dell'ingaggio a Zaza. Io credo che, ecco, la prima cessione che si potrà concretizzare della Juventus molto probabilmente sarà quella di Zaza. Non a caso la Juventus sta buttando su Piazza, ecco, della Dinamo. Sì, anche se poi davanti, io immagino, ma lo scrivono anche i tifosi della Juve: Pier, parte Zaza, è partito Morata, va bene Piazza, però bisogna fare qualcosa di peso. Il giro degli attaccanti. Dai, ridillo il nome, ridillo Pier, ridillo. No, ma io non è che tu mi vuoi far fare sognare Zizania. Io sono democristiano, vuoi dire che l'ascoltato. Dillo Pier, che Juve... voglio sentire anch'io. No, cioè la Juve voglia Higuain, ma con, non solo la Juve, l'Atletico Madrid vuole Higuain. Credo che sia chiaro che Simeone si è fatto dare delle garanzie di carattere tecnico ed economico della società, quindi secondo me non ci sono dubbi che voglia un grande acquisto. Higuain è in cima alla lista. Mi risulta che Diego Costa stia facendo di tutto, carte false per poter tornare alla Atletico Madrid, e quella può essere un'altra opzione che può rientrare in questo giro di attaccanti. C'è sempre l'ipotesi Cavani, anche se il Paris Saint-Germain nelle ultime ore ho fatto un po' di check, sono un po' meno convinto sul fatto che poi Cavani sia veramente in uscita. Quindi però i nomi sono quelli che la Juve possa sognare Higuain, mi pare normale. Poi tu mi metti a fare secondo me pare normale che sogni e poi si sveglia. Ma per me il Napoli perché... non lo vende alla Juve, anche perché appunto. Ricordiamo che la clausola è caduta, quindi non c'è neanche più quell'opzione, no? Se non sbaglio, assolutamente è scaduta il 30 giugno. Quindi insomma, se la Juve arriva con 80 milioni, Higuain non viene comunque ceduto. Io penso che si vada verso il lodo marino, La società che sta facendo sul serio in questo momento per Higuain, in Italia non c'è in questo momento, ma il ragionamento di Pier Fila, è l'Arsenal. È l'Arsenal che è pronto a dare, ad esempio, 70 più Giroud, da quello che siamo riusciti a capire nelle ultime ore. Sì, ha aumentato ancora di più, cioè nel senso ha insistito, sta insistendo sempre di più per Higuain, questo è poco ma sicuro. De Laurentiis deve essere molto bravo, perché nel senso arriverà a un certo punto che poi arriverà anche l'offerta per Koulibaly da parte dell'Everton. Sì, quindi... e capite bene che con tutti quei soldi veramente poi si possono rifare due squadre e mezzo. A patto di farsi dire di sì, perché poi è sempre questo il tema. Aspettate, siamo un po' in ritardo sul traffico, e ad esempio a proposito di l'ultimo è, mi risulta, quello di Witzel al Napoli, sempre per le solite questioni. C'è il traffico e torniamo. Tutti convocati. Convocati. Ciao a tutti, vorrei ringraziare ogni persona che ho vissuto in questi anni, sia i miei compagni di squadra, sia i mister che ho avuti. Per me è difficile il momento in cui devo purtroppo partire, ma vi porterò sempre nel mio cuore e per me l'Inter sarà sempre la mia famiglia. Questo Juan Jesus, che da ieri è un giocatore della Roma, dunque scrive un amico, Davide da Forlì: l'Arsenal e il Napoli inglese prenderebbero tutti ma non ci vuole andare nessuno. Poi un altro dice: sono pronto a scommettere che la Juve prende Bacca. Questo è Matteo. E poi Giancarlo: se la Juve vende Bonucci è come se il Barcellona vende Messi, per me è incedibile. Vabbè, con tutto il rispetto per Bonucci. Mario Giunta, il Milan che fa a parte vendere Bacca alla Juve, come dice il nostro amico? O comunque qualcuno lo vende? Sì, potrebbe venderlo al West Ham più che la Juve. Adesso, esatto, che scherzi a parte e suggestioni di mercato. Domani Bacca darà una risposta proprio al West Ham. Tra l'altro, per collegarci e ricollegarci al discorso delle grandi punte che stavamo facendo poco fa, la situazione paradossalmente è anche legata alla risposta che il Chelsea deve dare all'Atletico Madrid per Diego Costa, e a quel punto potrebbe aprirsi una porta anche in Liga per Carlos Bacca. In questo momento però il West Ham è sicuramente la squadra favorita, con un'offerta importante sia al Milan sia al giocatore. Probabilmente poi, tra l'altro, con quei soldi il Milan, con quel tesoretto, proverà quantomeno a prendere Musacchio. La cosa che si sta delineando chiaramente, Pier, io credo che tu condivida, è che il Milan fa i soldi con i giocatori che cede, altri voli pindarici non ci sono. Sì, paradossalmente, che è un po' una sorpresa. È una sorpresa, fin qui mi era sembrata più munifica, più spumeggiante la campagna acquisti dell'anno scorso. Vi ricordate che l'anno scorso, quando eravamo in pieno dibattito, in piena suggestione Mr. B, uno dei, l'ho detto anch'io, quindi anch'io mi autoaccuso, insomma, uno degli indizi che sembravano, insomma, far propendere per una serietà della trattativa e la completezza della trattativa era proprio il fatto che il Milan l'anno scorso ha speso un sacco di soldi fra Romagnoli, Bertolacci, lo stesso Bacca, insomma, ha fatto una campagna acquisti importante, da 80, 90, forse addirittura 100 milioni, Giunta, che è un esperto, ci darà la cifra. No, te lo dico io, alla fine a bilancio è 115 milioni circa. 115, è vero. Ecco, quest'anno mi sembra invece un po' più tornata sul basso profilo, premesso che poi alla fine magari, cioè non è che più spende meno spende nel calcio sempre, eh? Ci sono anche i colpi di genio e ci sono anche le sole, come diciamo noi a Roma, quindi sicuramente la campagna acquisti l'anno scorso non ha funzionato del tutto. Quest'anno la strada mi sembra una strada completamente verde. Sull'Arsenal invece devo dire una cosa da vecchio bevitore dei bar della zona di Highbury e dell'Emirates, che in realtà l'Arsenal ha cambiato strategia negli ultimi anni, perché è stata una società che storicamente con Wenger quasi non comprava, cioè Wenger era l'unico allenatore al mondo che risparmiava i soldi. Quindi, insomma, era abbastanza assurdo. Adesso invece ha cominciato anche a ipotizzare qualche acquisto. Grande colpo, e Higuain, insomma, non mi sorprende, perché l'Arsenal ha bisogno di un grande attaccante. Giroud non è un grande attaccante, è un attaccante di manovra, che potrebbe anche andare bene al Napoli, secondo me, perché Se non è il profilo, credo, per De Laurentiis, non un giocatore di 30 anni con già uno stipendio alto. Lui ha sempre fatto cambi su profili diversi, proprio come investimento. Però mi sbaglio, magari. Però secondo me a Sarri piace molto, da quello che so. Sì, dal punto di vista tecnico può essere. Come Giroud, dal punto di vista proprio perché è un attaccante che fa giocare bene i compagni di squadra. Mm. È un attaccante di manovra più che di realizzazione. Quindi, da questo punto di vista, è il contrario di Icardi. Icardi è un attaccante che gioca dentro l'area, gioca per sé. Non c'è discussione. Però dipende da come vuoi giocare. Ma si è visto del resto anche in questo europeo come Giroud ha fatto giocare Griezmann, Payet, Napoli ha quei giocatori, perché il Napoli comunque ha Callejon, ha Mertens, ha Insigne, potrebbe avere Candreva, anche se secondo me alla fine andrà all'Inter, ma comunque potrebbe avere altri giocatori, ha dei giocatori di grande inserimento, quindi uno come Giroud secondo me può anche funzionare. se la plusvalenza sono 60 milioni, beh, insomma. Si può anche ragionare. Beh, devo salutare Mario, che poi ci sono un paio di ascoltatori, però Mario ti saluto con questa dritta. Grazie, ragazzi, con lavoro, aspetta, con questa dritta di mercato, sai, noi siamo una radio di servizio. Allora, ti ha ascoltato un amico, Giulio da Bari, e ti scrive: il prossimo centravanti dell'Atletico sarà Diego Costa o Gamero, fidati. Bene, io Giulio da Bari. Ma sapete chi è Giulio da Bari? Chi è? Giulio Mora. Giulio da Bari è uno storico abbonato, il socio dell'Atletico Madrid. Sì, è vero, moglie, è vero. Tifosa del Real. T'ho incontrato circa 14 volte in aereo, e anche che saluto, una persona molto simpatica, che quindi insomma è anche abbastanza informato, secondo me. E allora prendo appunti, e allora prendo appunti. Quindi Diego Costa va all'Atletico. Vedi che ci guadagni, Diego Costa, te lo dico anche a Giulio, se non lo sa, Diego Costa chiama giorno e notte perché vuole tornare. Poi che questo possa accadere o meno. Ecco, accadere o meno, non lo so, però insomma che ci sia la volontà del giocatore di tornare a vestire colcio nero, non ci sono dubbi. Va bene, grazie Mario. Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao, abbiamo tempo. Per Andrea da Trento, poi Daniele dalla provincia di Torino lo facciamo dopo. Andrea, dai. Eccomi qua. Vai. Molto veloce, cioè se sono uno juventino, insomma, nel sangue, globuli bianchi e neri. E se ci hanno offerto 60 milioni per... se hanno offerto alla Juventus. Sì. SPA, quindi un'azienda quotata in borsa. Vabbè, se sei eccetera, azionista, eccetera, hanno offerto anche a te qualche centesimo, prego. Dai. Vabbè, quello che è. Però insomma, se hanno offerto 60 milioni per Bonucci, via subito. Io non voglio ricordare ai miei colleghi tifosi che Bonucci, Chiellini, un po' Barzagli, vabbè, lasciamolo perdere, lui è un campione vero, e Buffon altrettanto, erano la difesa quando vivevamo per quella tragedia tragicomica, indegna. Sì, quando avete fatto i settimi posti. Esatto, erano gli stessi signori. Però insomma, sono anche cresciuti, Andrea, sono anche cresciuti. Dobbiamo fermarci che c'è il GR. Ciao Piera, domani. Ciao ragazzi, ciao domani. E dopo recuperiamo Daniele dalla provincia di Torino. Promesso, GR, torniamo subito, 800 24 00 24. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Che dire, arrieccici. Convocati. Je suis honoré d'être à Monaco. Je suis très motivé pour la saison. Dague Munego. Non solo the coaches on the table, anche the goalkeepers on the table. Questo è Morgan De Santis ieri nel suo saluto ai nuovi tifosi del Monaco. Poi fra qualche minuto vi facciamo sentire qualcosa in diretta. Eccolo lì, c'è Antonio Conte che sta ricevendo le ultime istruzioni prima della sua conferenza stampa di debutto al Chelsea, che tutti si aspettano faccia in inglese. Vediamo, dai. Daniele dalla provincia di Torino. Daniele. Sì, buongiorno. Intanto volevo fare i complimenti per come conducete la trasmissione. Poi vi ho telefonato perché ho letto, uscito dalla fabbrica, ho letto un articoletto uscito su internet, in poche parole quello che ha detto la G di Giaccherini verso la proposta del Torino e tutto quanto. Allora, io in questa estate qui si vede che ormai i procuratori hanno potere, hanno opinire, forse più anche delle federazioni. Beh, insomma, è da qualche anno che è così. Prego. Sì, ma cosa ha detto? Mi è sfuggito. A me sembra che si siano un po' esagerati adesso, perché andare a dire Cairo capirà quanto è più forte il Napoli e per questa ragione noi abbiamo fatto l'accordo con Torino, era tutto fatto, ma già sapevamo che il Napoli ci voleva, per cui aspettavamo soltanto il via libera del Napoli. Cioè, questo per conto mio è poca educazione anche verso squadre che Il Torino, si sa, abbiamo un io sono un tifoso del Toro, abbiamo un presidente che ha noi qui a Torino lo chiamiamo braccette corte, sì, perché è una persona che giustamente, per conto mio, spende il giusto per i giocatori. E in questo caso per Giaccherini voleva spendere una cifra anche abbastanza grossa per i nostri standard. Sì, ma c'è un po' di ineleganza in quelle parole lì, hai perfettamente ragione. Poi però, Daniele, è anche un po' la logica del mercato. Il Toro è dietro anche agli AIC, altra vicenda credo surreale. Io non so come la stiate prendendo voi tifosi del Toro, se poi un giorno gli AIC deciderà di venire da voi o di andare chissà dove. Però sono le storie di mercato, e sul valore dei procuratori c'è poco da dire. Quello è il valore, ma non quest'anno. Comandano da qualche tempo e sono delle figure sempre più importanti nella gestione, nella vita, non solo nelle carriere dei propri giocatori, ma anche nella vita e nella gestione dei club. Sky Sport, dai, che vediamo di prendere le prime parole di Antonio Conte. Buon pomeriggio a tutti. It's a great pleasure for me. È un grande piacere aspetta, per però me essere qui. È doppiato. I'm very happy. Sono molto contento. I think that credo I worked a lot to stay di aver here. Lavorato molto per arrivare qui. And yeah. I'm sì. Excited. Sono emozionato for this moment. Per questo momento. Start a new season with per iniziare una nuova stagione con il Chelsea. This is a new chapter for, è un nuovo capitolo for my life, per la mia vita, per la mia carriera, per me. Vabbè, insomma, gli diamo, dai, diamo una sufficienza, poi domani vi facciamo sentire tutto. Paolo da Vicenza, Paolo. Sì, salve. Niente, io ho telefonato per il discorso Lazio, sì. Bielsa. Allora, sarò io scemo, io sono simpatizzante di Biancazzurro, sì. Però mi sembra che sia assurdo piangere per aver perso uno come Bielsa, che io, secondo me, non è certo un Guardiola, un Ancelotti, un Mourinho, mi sembra che sia un po' sopravvalutato. E io, come laziale simpatizzante, preferisco avere un Inzaghi motivato, laziale, che si impegna per risollevare la squadra. Ecco, mi sembra che Bielsa sia veramente sopravvalutato. Io non so se Bielsa è sopravvalutato, Paolo. Io so che evidentemente era una scelta che aveva dei profili di fascino, ma anche di incertezza. Noi lo diciamo qui da un po', cioè, perché la Lazio, che ha avuto in mano Prandelli, che invece è un allenatore capace comunque di far partire un progetto anche con giocatori giovani, poi ha scelto di fare qualcosa di diverso. Lo titolo ha spiegato in questi giorni. Ha cercato di dare un'emozione ai tifosi, si è esposto a un rischio e poi il rischio, insomma, la situazione è andata come è andata. Qualcuno ha scritto 349-238-6666 chiedendoci quante sono le possibilità di Alex Wasser di andare alle Olimpiadi di Rio. Ecco, allora adesso rispondiamo. Per vincere le Olimpiadi non c'è bisogno di doping, non ho bisogno di doping e neanche della giornata di grazia, ma di una semplice giornata di allenamento. Io non mi sono dopato, quindi questa sostanza o qualcuno me l'ha messa nei giorni prima oppure la provetta è stata manipolata, una delle due ipotesi. Se tra un anno mi danno ragione non me ne frega niente, perché io da 4 anni che sono tornato e che ho lottato e che voglio andare a queste Olimpiadi perché la vinco, perché sono nettamente il migliore nella mia disciplina e io voglio fare questo, non tra un anno in un tribunale sentirmi dire che sì, ci avevi ragione, ma poi alle Olimpiadi non ci sono andato. Claudio Arrigoni della Gazzetta dello Sport, ciao Claudio. Ciao Giovanni. Autore dello scoop sulla positività di Alex Wasser. Oh, io non so come la pensi tu, io provo davvero un senso d'angoscia per questa vicenda, per le parole di Alex Wasser, per quelle di Sandro Donati. Perché insomma c'è un senso di difficoltà a capire, anche di impotenza, perché alcune cose tornano poco, altre non sono facili da provare, quindi insomma c'è anche il senso dell'ineluttabilità di qualcosa che andrà come sappiamo. No, hai ragione, la penso anch'io come te. Sinceramente era un pezzo quello delle scorse settimane e quelli di questi giorni che avrei preferito davvero non scrivere. Io non so se Alex riuscirà ad andare alle Olimpiadi o meno. Quello che mi sento di dire è che non è colpa di giornali, di critica, di persone che comunque in una maniera o nell'altra si fanno un'opinione di questa vicenda, se questa vicenda c'è, perché dalla conferenza stampa di ieri sembra che ci sia una montagna di cose, persone, fatti che tutte tramano nell'ombra verso Schwarzer, verso Donati, verso... Sì, c'è la teoria del complotto Franzetta, che per la prima volta viene evocata senza che sia lì tra le righe da interpretare, cioè viene messa squadernata chiaramente. C'è un complotto per colpire un personaggio scomodo come Sandro Donati e qualcuno insomma che si trova sulla strada. E io su questo devo essere sincero, non ho un'idea. Dici che non so che idea abbia tu. Però è drammatico, perché non ho un'idea, sì, significa anche lasciare aperta la porta al dubbio. Si lascia ma io su questo, guarda, sono garantista fino al midollo su Bernardo Provenzano, quindi figuriamoci se non lo sono nello sport. Credo però che c'è un fatto acclarato, che in una provetta dell'1 di gennaio ci siano tracce evidenti, fra l'altro minime ma evidenti, di testosterone endogeno, vuol dire non prodotto dal corpo ma immesso. Questa è la certezza. Purtroppo sappiamo com'è la giustizia dello sport. La giustizia dello sport ti dice: non devo darti io la prova, te l'ho data che c'è. Adesso devi tu dimostrarmi che non arriva da te, ma che ci sono altre cause. Purtroppo ieri tutte queste prove non mi sembra che siano emerse. Questo non vuol dire che Alex Schwarzer sia dopato, questo vuol dire che non abbiamo una prova del contrario. Io e tutta la Gazzetta dello Sport, mi sembra che il fondo che abbia fatto oggi, l'editoriale che abbia fatto oggi il direttore Andrea Monti sia molto chiaro in questo, ci auguriamo di avere un atleta come Alex Schwarzer alle Olimpiadi. Naturalmente con delle chiarezze, con delle certezze, questo sì. Ci sono tanti che evocano il parallelo con la vicenda Pantani. Ma mi sembra molto forzato. Di sicuro ci auguriamo che non ci sia una traiettoria umana che ricorda quella evidentemente di Pantani. Però questa figura di Schwarzer un pochino sta prendendo la pancia dei tifosi, sta dividendo. C'è chi dice Schwarzer ha messo nei guai l'Italia e la Kostner, ancora gli crediamo. C'è chi dice che puzza tutto troppo, tutta questa vicenda, insomma, tutto quello che è emerso. Io ho anche un'altra curiosità che ti giro, tu conosci bene il mondo dell'atletica, dello sport italiano, e io mi chiedo perché attorno a Schwarzer anche negli ultimi mesi ci sia stato il grande vuoto, anzi l'ostilità, come se Schwarzer fosse stato il primo atleta dopato a cercare di riabilitarsi, a cercare di tornare in pista. Sì, è vero. Perché? Guarda, infatti ieri... una delle domande che sono arrivate dalla conferenza stampa è stata: ma ti è arrivata solidarietà dai colleghi? Io oggi l'ho messo nel pezzo della Gazzetta che ho fatto, una pagina che ho fatto per la Gazzetta, e lui ha risposto: non mi ha chiamato nessuno. Quindi è un po' esemplificativo di quello che hai detto tu poco fa. Guarda, io rileggo questa cosa in due modi. Uno, c'è il codice etico della federazione, che è molto chiaro da questo punto di vista, no? E che al quale hanno aderito tutti gli atleti. E allora gli atleti dicono: ma insomma, se abbiamo aderito tutti a questo codice etico, e cioè che non si ritorna in nazionale dopo che si è avuto una squalifica per doping, non capiamo perché c'è qualcuno che è più uguale degli altri, come nella fattoria degli animali d'oro. E dall'altra parte il mondo dello sport è un pochino diverso da quello che è la società, perché ieri ne parlavamo tanto anche al giornale, abbiamo discusso tanto al giornale, io ho richiamato la parabola, no? C'è questa parabola meravigliosa nel Vangelo, no? Del figlio prodigo, dove c'è questo papà che accoglie il figlio prodigo e l'altro che gli è stato vicino a tutta la vita lo tratta un po' meno bene, diciamo, ecco. Però è una parabola meravigliosa. E la storia di Alex potrebbe essere stata una storia meravigliosa, la storia dell'Olimpiade, una storia di grandissima redenzione. Con il rischio di oscurare le altre, di oscurare carriere, imprese. Ed è questo che gli altri, i figli che sono stati sempre vicini al papà, come nel Vangelo, dicono: scusa, però io sono sempre stato qua, sono sempre stato vicino. Forse questa è la lettura che si può dare delle reazioni che hanno i colleghi. Poi c'è chi ricorda, ad esempio, Basso e Valverde, che sono stati riabilitati anche dalla stampa, ma è lunghissimo l'elenco di persone che hanno avuto incidenti più o meno gravi col doping, atleti che poi sono tornati e si è quasi dimenticato che cosa era stato del loro incidente. C'è chi cita anche il grande Merckx, chi si ricorda che Merckx ha avuto un problema col doping? Sì, se certo. Si fa una ricerca si ricorda, però di Merckx rimane quello. Difficilmente, io credo, Alex Walzer andrà alle Olimpiadi di Rio, non ci sono i tempi e forse non è neanche giusto che sia così. Difficilmente Walzer sarà ricordato per qualcosa di diverso da queste vicende. Grazie Claudio. Grazie Giovanni, buon lavoro a tutti voi di Radio 24. Grazie anche a te Claudio, è triste, ma è così. Andrea da Milano. Ciao Giovanni, complimenti. Ciao. Per la trasmissione. Grazie. Siete sempre in gamba. Io ti dico, io sono contento se Svacer non andrà alle Olimpiadi, perché è la dimostrazione che comunque una volta che uno viene cuccato con il doping andrebbe radiato. Sì, però Andrea, le regole sono diverse. Cioè, una volta che uno viene preso, prende una squalifica da 2 a 4 anni a seconda, insomma c'è un tarifario, c'è un regolamento ed è quello che è successo ad Alex Walzer, che ha pagato come tutti gli altri. Poi c'è una vicenda con non ha sufficienza, ma vale per tutti. Vale per tutti. Lui non vale Olimpiadi per quello che è successo dopo. Sì. Ma questa è la dimostrazione, vedi che continuiamo ad arrovellarci su questo argomento. Se fosse stato radiato, il problema non si porrebbe. Sì, ma si può fare, però secondo i regolamenti potevamo radiare ad esempio anche Carolina Kostner, altra vicenda di questa storia in cui magari ha pagato qualcuno innocente dal punto di vista del doping, ma con un comportamento discutibile. Allora cosa facciamo? Questa è una vicenda che pone tantissime domande. Luigi da Pisa, è così dall'inizio. Luigi. Buonasera a voi e grazie della convocazione. Eccoci. Io sono contrario al giustizialismo di questo signore di Milano. Sì. Perché io dico una cosa: come mai questa provetta il 1 gennaio è uscita negativa? Come mai dopo che Svazia è rientrato con la contrarietà di alcuni atleti, la settimana dopo diventa una provetta che era negativa diventa positiva? Poi noi italiani siamo bravi a distruggere i nostri, diciamo, eroi, se li vogliamo chiamare così, o i nostri atleti, no? Mentre la Spagna li difende, è stata tratta anche in tutti i modi. Poi noi italiani siamo pronti a piangere, a cercare i colpevoli di chi magari ha fatto morire Pandani, che è stato provato che nella provetta c'era stata messa roba per colpa della camorra napoletana. Comprovato no, però diciamo però è una tesi che ha preso campo e ha anche qualche testimonianza. Comprovato no, però, Luigi, diciamo le cose come stanno. Prego però, concludi. Però vorrei un attimino, quantomeno avere un po' di dubbio. Io credo che Donati, Svarz, sarebbe stato troppo stupido, ma veramente troppo stupido, se si fosse dopato ancora. Io credo nell'innocenza di questo atleta. Io credo, Luigi, e purtroppo è quello che ci porteremo dietro, che di questa vicenda continueremo a parlare semplicemente così, cioè da innocentisti o colpevolisti, però sempre con un'ombra di dubbio, di non aver capito fino in fondo che cosa è successo. Grazie. Andiamo sulle strade del Tour, che oggi sono particolarmente ventose. Oggi c'è il Mont Ventoux, che però non si percorrerà tutto. Pier Augusto Staggi. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, mi confermi che non si va fino in cima, no? No, ti confermo. Ci fermiamo 6 km prima, arriviamo allo Chalet Reval e lì si concluderà la corsa. Comunque sarà una corsa vera, scoppiettante ugualmente come già si sta vedendo. Ci sono le squadre importanti con il Team Sky di Chris Froome subito in testa, che sta controllando la situazione. Anzi, qualche chilometro fa c'è stato l'ennesimo colpo di mano degli uomini Ethics, formazione belga di Chiara, che sa a domesticare il vento, no? Essendo abituata a correre le classiche del nord che sono generalmente battute dal vento, quindi sanno assolutamente destreggiarsi. Estremamente lesto è stato ancora una volta Krom, che era là davanti. Invece uno che è andato indietro per un attimo è stato Peter Sagan, che oggi l'ha presa un po' comoda, sta tirando il fiato, sì, dopo quello che ha fatto ieri, dopo un inizio di tour strepitoso, perché bisogna dire, un corridore così è veramente eccezionale, onora la maglia di campione del mondo che sta portando in giro sulle strade di Francia e in giro per tutto il mondo, perché sta confermando che se negli ultimi anni c'era la maledizione della maglia ridata, beh, questa volta a maledirlo sono i suoi avversari, perché lui sta andando veramente molto forte e fa quello che vuole. Gli manca solo quella tenuta da scalatore, che non avrà mai, perché a livello fisiologico non è, è portato per andare forte sulle grandi salite, però ha anche doti di grande recupero, lo sta dimostrando, perché ogni giorno si inventa qualcosa. Sì, magari un giorno sarà anche pronto per fare il tour da protagonista vero, cioè per correre per vincere, per chiudere, perché per poi vincere, abbiamo tutta mai. La giornata mai dici? Ma, no mai, non può, tecnicamente non è adatto a un grande giro di 3 settimane, non potrà mai diventarlo. È un grande cacciatore di classiche, è un grande cacciatore di tappe, è uno che potrà vestire anche quest'anno, potrebbe raggiungere la 5ª maglia verde, che vuol dire classifica punti ultra meritata, cioè 90 punti di vantaggio, ma per un grande giro come il Giro d'Italia o il Tour de France assolutamente no, non è fatto. Ho un minuto, io aspetto molto da Froome, perché una maglia gialla che attacca anche in una tappa per sprinter, oltre a dare spettacolo, di questo lo ringraziamo, mi dà il sospetto che forse stia cercando ovunque secondi, perché magari si sente meno forte poi dove invece i tour si vincono. Guarda, sono d'accordo, qui ci sono due pensieri. Uno, che sostiene che Froome sta attaccando tanto perché si sente insicuro. Io invece credo che stia attaccando tanto perché si diverte, perché ormai ha raggiunto una sicurezza, una maturità tale che si conosce perfettamente e soprattutto ha anche capito che ogni volta che attacca mette in difficoltà a livello psicologico, proprio lo inibisce il colombiano Nairo Quintana. Io credo che anche oggi, visto che è lì davanti, sin dai primi chilometri, perché c'è vento, tanto vento anche in basso, per la cronaca soffia il vento, il Mistral a 124 km orari. 124. Sì, una cosa pazzesca. È andato su un giornalista di France 2, ha portato un reportage, faceva fatica a rimanere in piedi. È una cosa incredibile. D'altra parte lo conosco, quando so grosso modo cosa vuol dire 50 km orari, figuriamoci 100. Sì, oggi era davvero impossibile andare su. Pier, no, ti saluto. Per i nostalgici, siamo in chiusura, Pier. Per i nostalgici, sì. Stanno passando le immagini di Pantani sul 21. Ci commuoviamo 2000, un po' tutti. Tour del 2000. Assolutamente. Ciao Pier Augusto, a domani. Bellissimo con Arno. Lo so. Storia. A domani, Pier Augusto. A domani Pier Augusto dalle strade del Tour. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani dopo il GR delle 14. I'm very happy.